Diciottesima traccia. Sembrava che ci fosse tra tutti loro un'intesa così perfetta, cominciò lui piuttosto rapidamente, ma frenandosi aggiunse: tuttavia mi è impossibile dire quali fossero realmente i loro rapporti, come potessero andare le cose dietro le scene. Quello che posso dire è soltanto che tutto andava liscio all'esterno. Ma voi, che avete conosciuto Miss Fairfax da bambina, dovete essere miglior giudice di me del suo carattere e di come essa tende a comportarsi nelle situazioni critiche. Già, l'ho conosciuta fin da bambina. Siamo state bambine e donne insieme. Ed è naturale supporre che siamo intime, che ci si sia cercate con simpatia reciproca ogni volta che essa veniva a far visita alle sue amiche. Ma questo non è successo mai. Non so perché. Forse un po' per la mia cattiveria, proclive a prendere a noia una ragazza così idoleggiata e vantata come è sempre stata lei dalla zia e dalla nonna e da tutto il loro ambiente. E poi il suo riserbo, non mi riuscirebbe mai ad affezionarmi a una talmente riservata. È davvero una qualità repellente in sommo grado, disse lui. Spesso, certo, conviene assai, ma non è gradevole mai. Il riserbo è sicuro, ma non attraente. Non si può amare una persona riservata. No, finché il riserbo non cessi verso di noi, e allora l'attrazione potrà essere anche maggiore. Ma bisogna che io senta la mancanza di un'amica o di una compagna gradevole più di quanto non mi sia capitato finora, per prendermi la bega di vincere il riserbo d'alcuno per procurarmela. L'intimità tra me e Miss Fairfax non se ne parla. Non ho ragione alcuna di pensare male di lei, proprio nessuna. Se non che tale estrema e perpetua cautela di parole e di maniere, tale paura di dare di alcuno un'idea distinta, può generare il sospetto che ci sia qualcosa da nascondere. Egli era perfettamente d'accordo con lei. E dopo aver camminato insieme così a lungo e aver pensato tanto allo stesso modo, Emma sentì che avevano fatto conoscenza così bene che stentava a credere che fosse solo il loro secondo incontro. Egli non era proprio quale lei se l'aspettava. Meno uomo di mondo in alcune delle sue idee, meno ragazzo viziato dalla fortuna, perciò migliore di quel che lei si era aspettato. Le sue idee sembravano più moderate, i suoi sentimenti più caldi. Rimase particolarmente colpita dal suo modo di considerare la casa di Mr. Elton, che gli volle andare a vedere, non meno della chiesa, e non volle unirsi a loro nel trovarci molto da ridire. No, non poteva ritenerla una casaccia. Non una casa da doverne compiangere chi l'avesse. Se doveva essere condivisa con la donna amata, non poteva ritenere che uno fosse da compiangere per averla. Ci doveva essere posto più che sufficiente in essa per ogni vera comodità. Doveva essere un vero zuccone l'uomo che voleva di più. Mrs. Weston rise e disse che lui non sapeva di che parlava. Abituato a una casa vasta lui stesso, senza mai riflettere a quanti vantaggi e comodi fossero consentiti dalle sue dimensioni, non poteva essere giudice delle privazioni che inevitabilmente erano proprie di una casa piccola. Ma Emma, in cuor suo, concluse che egli sapeva benissimo di che cosa parlava e che mostrava una quanto mai amabile inclinazione a sistemarsi presto nella vita e a sposarsi per degni motivi. Poteva non rendersi conto delle intrusioni nella pace domestica che potevano derivare da non esserci una camera per la governante o da una cattiva dispensa, ma senza dubbio sentiva perfettamente che Enscombe non poteva renderlo felice e che, quando si fosse affezionato, avrebbe di buon grado rinunziato a molta ricchezza per potersi accasare presto. L'ottima opinione che Emma si era formata di Frank Churchill fu un po' scossa il giorno seguente quando sentì che egli se n'era andato a Londra, se non altro che per farsi tagliare i capelli. Pare che gli fosse improvvisamente venuto il capriccio all'ora di colazione ed egli aveva ordinato una sedia di posta ed era partito, con l'intenzione di tornare per l'ora di pranzo, ma senza altra ragione apparente che quella di farsi tagliare i capelli. Certo, non c'era nulla di male che egli facesse due volte un viaggio di 16 miglia per tal motivo. Eppure la cosa aveva un'aria fatua e assurda che essa non poteva approvare. non si accordava con la ragionevolezza di intenti, la moderazione di spesa o anche il fervido altruismo che aveva creduto di discernere in lui il giorno prima. Vanità, stravaganza, amore di mutamenti, irrequietezza d'indole, che a costo di far qualcosa non guardava se fosse bene o male, noncuranza di compiacere il padre o Mrs. Weston, indifferenza circa il giudizio che la sua condotta avrebbe potuto provocare in genere. Di tutte queste cose egli poteva venire incolpato. Il padre si limitava a definirlo un damerino e trovava la cosa divertente, ma che non piacesse a Mrs. Weston era abbastanza chiaro dal suo passarci sopra il più rapidamente possibile, senz'altro commento se non che tutti i giovani hanno i loro grilli. Con l'eccezione di questa piccola macchia, M trovò che per ora la sua visita aveva provocato nella sua amica soltanto una buona opinione sul giovane. Mrs. Weston era prontissima a dire che compagno attento e dilettevole egli aveva saputo essere, quanto in complesso trovava di suo gusto nella sua indole. Mostrava un carattere molto aperto, certo molto gaio e vivace, non vedeva nulla di male nelle sue opinioni, anzi molto di bene, decisamente. Egli parlava dello zio con affettuoso rispetto, gli piaceva parlare di lui. Diceva che egli sarebbe stato il miglior uomo che esistesse se fosse dipeso solo da lui, e benché non si potesse parlare di attaccamento alla zia, riconosceva con gratitudine la sua bontà e pareva volesse parlare di lei sempre con rispetto. Tutto ciò prometteva molto bene, e a parte tale malaugurata fantasia di farsi tagliare i capelli, non c'era nulla che lo qualificasse indegno del distinto onore che l'immaginazione di Emma gli aveva conferito. L'onore, se non d'essere addirittura innamorato di lei, d'esserci almeno molto vicino, ed esserne scampato solo per l'indifferenza di lei, che ancora durava la sua risoluzione di non sposarsi mai. L'onore, in breve, di essere designato per lei da tutte le loro comuni conoscenze. Mr. Weston, da parte sua, aggiunse una virtù a suo credito, che essa doveva avere qualche peso. Le fece capire che Frank l'ammirava immensamente, che la pensava molto bella e affascinante, e con tanto che c'era da dire in favore di lui, essa sentiva di non doverlo giudicare in modo avventato. Come osservava Mrs. Weston, tutti i giovani hanno i loro grilli. C'era una sola persona tra le nuove conoscenze del giovane nel Surrey che non era disposta così benevolmente. In genere egli veniva giudicato senza alcuna prevenzione nelle parrecchie di Donwell e di Ivory. Si facevano liberali concessioni per i piccoli eccessi di un bel giovanotto come lui, uno che sorrideva così spesso e si inchinava così bene. Ma tra loro c'era uno spirito che, per suo potere di criticare, non si lasciava commuovere dagli inchini o dai sorrisi, Mr. Knightley. Gli venne riferita a Hatfield quella circostanza del taglio dei capelli. Per un momento stette zitta, ma Emma lo udì quasi subito dire tra sé, mentre stava chino su un giornale che teneva in mano. Proprio il tipo frivolo e sciocco che l'avevo pensato. Emma fu lì per protestare, ma un momento d'osservazione la convinse che la frase era stata detta realmente solamente per sfogarsi da solo e non con l'intento di provocare, sicché lasciò correre. Sebbene da un lato non fossero portatori di buone notizie, la visita di Mr. e Mrs. Weston quella mattina fu, d'altro canto, particolarmente opportuna. Accadde qualcosa mentre essi si trovavano a Hartfield che fece sì che Emma abbisognasse del loro consiglio e, cosa ancora più fortunata, abbisognava proprio del consiglio che essi diedero. Il caso era questo. I Cole risiedevano da qualche anno a Ivory ed erano buonissima gente, socievoli, liberali senza pretese, ma d'altronde essi erano d'umile origine, commercianti e solo moderatamente distinti. Nei primi tempi, dopo il loro arrivo nel paese, avevano vissuto in proporzione alle loro rendite, quietamente, intrattenendo poche conoscenze e quelle poche senza molta spesa. Ma da un anno o due i loro mezzi erano aumentati di molto. La vita a Londra aveva dato maggiori proventi, e in genere la fortuna aveva arriso loro. Con la loro ricchezza s'ampliarono le loro vedute. Il loro desiderio di una casa più grande, la loro inclinazione a vedere più gente. Fecero aggiunte alla loro casa, al numero dei loro servi, alle loro spese d'ogni genere, e nel momento di cui parliamo, per patrimonio e per tenore di vita, erano secondi solo alla famiglia di Hartfield. Il loro amore della società e la loro nuova sala da pranzo fecero sì che ognuno s'aspettasse che essi tenessero corte bandita, e alcuni inviti, specialmente tra gli scapoli, avevano già avuto luogo. Le famiglie costituite e migliori, Emma non poteva supporre che essi avrebbero presunto di invitarle, né Donwell, né Hartfield, né Randolph. Nulla avrebbe tentato lei a recarcisi se lo avessero fatto, e si rammaricava che le note abitudini di suo padre avrebbero dato al suo rifiuto meno significato di quanto lei potesse desiderare. I Cole erano rispettabilissimi nel loro genere, ma bisognava insegnar loro che non toccava ad essi fissare le condizioni secondo cui le famiglie più altolocate avrebbero fatto loro visita. Questa lezione, essa temeva assai, l'avrebbero ricevuta solo da lei. Poco sperava da Mr. Knightley e nulla da Mr. Weston. Ma Emma aveva deciso circa il modo di rispondere a tal presunzione tante settimane prima che si presentasse, che quando l'insulto venne alla fine la trovò in una posizione ben diversa. Donwell e Randalls avevano ricevuto il loro invito e non era venuto alcuno per suo padre e per lei. E non bastava che Mrs. Weston cercasse di darne la ragione con un «Immagino che non si prendessero questa libertà con voi, sanno che voi non pranzate fuori casa». Emma sentiva che le sarebbe garbato di aver avuto la facoltà di rifiutare. Poi, come l'idea della compagnia non si sarebbe trovata lì riunita, consistente proprio di coloro la cui società ella aveva sommamente cara, continuava a presentarsi alla sua mente, finì per non saper più se non si sarebbe sentita tentata di accettare. Harriet doveva trovarsi lì la sera, e le Bates. Ne avevano parlato mentre passeggiavano per Highbury il giorno prima, e Frank Churchill aveva calorosamente lamentato l'assenza di lei. «La serata non sarebbe potuta finire con un ballo?» era stata una sua domanda. La sola possibilità di ciò agì come un'ulteriore irritazione sullo spirito di Emma. E quell'essere lasciata in solitaria magnificenza, anche supponendo che l'omissione volesse significare un complimento, era una ben magra consolazione. Fu l'arrivo proprio di questo invito, mentre Weston si trovavano a Hartfield, che rese la loro presenza così gradita, poiché, sebbene la sua prima osservazione nel leggere quell'invito fosse che naturalmente doveva essere declinato, essa passò così presto a chieder loro che cosa le consigliavano di fare che il loro consiglio di andare fu immediato ed efficace. Essa ammise che, tutto considerato, non era del tutto aliena dal partecipare alla riunione. I Cole si esprimevano così correttamente, c'era tanto vero riguardo nella loro maniera, tanta considerazione per suo padre. Avrebbero sollecitato l'onore prima, ma avevano atteso l'arrivo d'un paravento da Londra che speravano avrebbe preservato Mr. Woodhouse dalle correnti d'aria e perciò l'avrebbe indotto più facilmente a conceder loro l'onore della sua compagnia. In complesso, essa si dimostrò molto incline a lasciarsi persuadere e dopo che ebbero brevemente fissato tra loro come la cosa potesse farsi senza trascurare i comodi di Mr. Woodhouse, come si poteva certamente contare su Mrs. Goddard, se non su Mrs. Bates per tenergli compagnia, egli doveva venire convinto a consentire che sua figlia andasse fuori a pranzo in un giorno ormai vicino e passasse tutta la serata lontano da lui. Quanto poi all'andare lui stesso, Emma non desiderava che egli lo pensasse possibile. L'ora sarebbe stata troppo inoltrato e la compagnia troppo numerosa. Ben presto egli si rassegnò. «Non mi piace far visite per pranzi», disse egli. «Non mi è mai piaciuto. Neanche Emma piace. Far tardi la sera non ci confà. Mi dispiace che Mr. e Mrs. Cole abbiano fatto questo, Credo che sarebbe assai meglio se venissero da noi un pomeriggio all'Estate Ventura e prendessero il tè con noi, se ci venissero a trovare durante la loro passeggiata pomeridiana. E questo lo potrebbero fare, poiché le nostre ore sono così ragionevoli, e potrebbero tornarsene a casa senza star fuori nell'umidità della sera. La guazza d'una sera estiva è una cosa a cui non vorrei esporre nessuno. Tuttavia, siccome sono così desiderosi d'avere a pranzo con loro la cara Emma, e siccome sarete là tutti e due voi altri, e anche Mr. Knightley, a prendervi cura di lei, non posso desiderare di impedirlo, purché il tempo sia come dovrebbe essere, né umido, né freddo, né ventoso. Dopodiché, volgendosi a Mrs. Weston, con uno sguardo di cortese rimprovero. Ah, Miss Taylor, se non vi foste sposata, sareste rimasta qui con me. Ebbene, signore, disse Mr. Weston, dal momento che io ho portato via Miss Taylor, tocca a me di trovare chi supplisca al suo posto, se mi riesce, e farò un salto da Mrs. Goddard in un momento, se lo desiderate. Ma l'idea che qualcosa dovesse essere fatta in un momento accresceva, anziché diminuire, l'agitazione di Mr. Woodhouse. Le signore sapevano meglio come calmarla. Mr. Weston doveva star tranquillo e ogni cosa doveva essere accomodata deliberatamente. Con questo modo di procedere, Mr. Woodhouse fu presto abbastanza calmo da parlare come al solito. Sarebbe stato felice di vedere Mrs. Goddard. Egli aveva molta considerazione per Mrs. Goddard ed Emma avrebbe dovuto scrivere un rigo e invitarla. James poteva portare la missiva, ma prima di tutto si doveva scrivere una risposta a Mrs. Cole. «Farai le mie scuse, cara, quanto più urbanamente potrai. Dirai che io sono assolutamente un invalido, che non vado in nessun posto e perciò devo declinare il loro cortese invito, cominciando naturalmente con i miei convenevoli. Ma tu farai tutto come si deve, non ho bisogno di dirti che cosa va fatto. Bisogna che ci ricordiamo di avvertire James che ci sarà bisogno della carrozza martedì. Con lui non avrò timore per te. Non ci siamo mai recati là una sola volta da quando è stato fatto il nuovo viale d'accesso, ma tuttavia non dubito che James ti porterà con ogni cautela. E quando sei là devi dirgli quando vuoi che torni a prenderti, e faresti bene a dire un'ora non troppo inoltrata. Non ti piacerà di restare fino a tardi, ti sentirai molto stanca dopo il tè. Ma non vorresti mica che io venissi via prima di sentirmi stanca, babbo? Oh no, amor mio, ma ti sentirai stanca presto. Ci sarà molta gente a parlare insieme, non ti piacerà il rumore. Ma mio caro signore, esclamò Mr. Weston, se Emma se ne va via presto, vorrà dire portarmene alla riunione. Niente di male se avviene così, disse Mr. Woodhouse. Quanto più presto una riunione a termine, tanto meglio. Ma voi non riflettete che effetto farebbe sui Cole. La partenza di M subito dopo il tè potrebbe offendere. Son buona gente e pensano poco alle loro pretese, ma pure devono sentire che se uno se ne va via in fretta non è un complimento. E se lo facesse Miss Woodhouse si noterebbe di più che se lo facesse chiunque altro. Non vorrete deludere e mortificati col signore, ne sono sicuro. Gente, se mai ce ne fu, socievole e buona, che sono vostri vicini da 10 anni. No, per nulla al mondo, Mr. Weston, vi sono molto obbligato per avermelo richiamato a mente. Mi rincrescerebbe moltissimo di dar loro un dispiacere. So che degna gente sono. Perry mi dice che Mr. Cole non tocca mai il liquore di malto. Non lo credereste a guardarlo, ma soffre di fegato. Mr. Cole soffre molto di fegato. No, no, non vorrei che per via di me avessero un dispiacere. Mia cara Emma, dobbiamo riflettere a questo. Sono certo che piuttosto che correre il rischio di offendere Mr. e Mrs. Cole, rimarresti un po' più a lungo di quanto sarebbe tuo desiderio. Non ti preoccuperai di sentirti stanca. Sarai perfettamente sicura, sai, in mezzo ai tuoi amici. Oh sì, babbo, per me non nutro timore alcuno e non mi farei scrupolo di restare fin quando rimane Mrs. Weston, se non per riguardo a te. Ho solo paura che tu stia alzato con per me. Non ho timore che tu ti trovi a bell'agio con Mrs. Goddard. Essa ama il picchetto, lo sai, ma quando lei se ne sarà tornata a casa, ho paura che rimarrai alzato da solo invece di andartene a letto alla tua solita ora. E l'idea di ciò distruggerebbe immediatamente il mio benessere. Devi promettermi di non rimanere alzato. egli promise in cambio di alcune promesse da parte di lei, quali, se essa tornava a casa sentendo freddo, doveva non mancare di scaldarsi ben bene, se affamata doveva prendere qualcosa da mangiare, che la cameriera doveva aspettarla alzata e che Ser e il maggiordomo guardassero che ogni cosa fosse in ordine in casa, come al solito. Tornò Fran Churchill e si fece aspettare il pranzo di suo padre, ciò non venne risaputo a Hartfield, perché Mrs. Weston teneva troppo a che gli fosse ben voluto da Mr. Woodhouse per tradire ogni imperfezione che potesse venir nascosta. Tornò, si era fatto tagliare i capelli e rideva di se stesso con molta buona grazia, ma senza realmente sembrare per nulla vergognoso di ciò che aveva fatto. Non aveva nessuna ragione di desiderare che i suoi capelli fossero più lunghi per nascondere la confusione del suo volto. Nessuna ragione di desiderare di non aver speso quel denaro per migliorare il suo umore. Era assolutamente lo stesso giovanotto intrepido e vivace di prima, e dopo averlo veduto, Emma cavò questa morale tra sé e sé. Non so se dovrebbe essere così, ma certo le cose sciocche cessano di essere sciocche se sono fatte da gente di buon senso in modo sfacciato. La malvagità è sempre malvagità, ma la sciocchezza non è sempre sciocchezza. Dipendere dal carattere di coloro che la praticano. Mitternati, egli non è davvero un giovane frivolo sciocco. Se lo fosse, avrebbe fatto ciò in modo diverso. Si sarebbe vantato della sua impresa o se ne sarebbe vergognato. Ci sarebbero state o l'ostentazione di un odor di notto o le scappatoie di un animo troppo debole per difendere le proprie vanità. No, sono perfettamente sicuro che non è né frivolo né sciocco. Il martedì si ripresentò la piacevole prospettiva di rivederlo e per un tempo più lungo che fino allora, di giudicare delle sue maniere in genere e, per deduzione, del significato delle sue maniere verso di lei, di congetturare quanto presto sarebbe stato necessario per lei mettere un po' di freddo nell'aria e di immaginarsi quali potessero essere le osservazioni di tutti coloro che li vedevano ora insieme per la prima volta. Aveva intenzione di star molto allegra, malgrado che la cena fosse preparata presso Mr. Cole, e pur senza riuscire a dimenticare che tra le manchevolezze di Mr. Elton, perfino nei giorni in cui egli era in favore, nessuno gli aveva dato tanta ombra quanto la sua propensione a pranzare con Mr. Cole. Il benessere di suo padre fu ampiamente assicurato, poiché Mrs. Bates e Mrs. Goddard potevano venire entrambe, e l'ultimo piacevole dovere di Emma, prima di lasciare la casa, fu di fare i suoi rispetti a esse mentre sedevano insieme con suo padre dopo pranzo. E mentre il padre faceva un'affettuosa osservazione sulla bellezza del suo vestito, di indennizzare le due signore per quanto era in suo dovere, servendo loro grandi fette di torta e bicchieri pieni di vino, di qualunque involontaria abnegazione l'ansia del padre per la loro salute poteva averli obbligati a praticare durante il pasto. Aveva provveduto a un pranzo abbondante per loro, le sarebbe piaciuto di sapere che era stato permesso loro di mangiarlo. Essa veniva dietro a un'altra carrozza, alla porta di Mr. Cole, e si rallegrò di vedere che era quella di Mr. Knightley, poiché, dato che Mr. Knightley non teneva cavalli e aveva poco denaro liquido e un bel po' di salute, d'attività ed indipendenza, era troppo proclive, a giudizio di Emma, a muoversi attorno come poteva e a non usare la carrozza così spesso come si confaceva al proprietario dell'abbazia di Donwell. Ora le era offerto il destro di manifestare la sua approvazione mentre era ancora calda, poiché egli si fermò per aiutarla a scendere. «Questo è proprio il modo di arrivare», fece lei, «come un gentiluomo, sono molto lieta di vedervi». Egli la ringraziò osservando: «Che fortuna che arriviamo allo stesso momento, perché se ci fossimo incontrati nel salotto, dubito che vi sareste accorta che io sono più gentiluomo del solito. Dal mio aspetto, dai miei modi, potreste non aver distinto in che modo ero venuto». «Ma sì, sono sicura che l'avrei potuto. C'è sempre un'aria di consapevolezza o di agitazione quando la gente arriva in un modo che sa essere al di sotto di lei. Pensate di farla franca, oso dire, ma in voi è una specie di bravazzata, un'aria d'affettata sprezzatura. Ci faccio caso ogni qualvolta mi capita di incontrarvi in tali circostanze. Stavolta non avete da cercare di conseguire nessun effetto. Non avete paura che suppongano che vi vergognate. Non vi sforzate di parere più alto degli altri. Stavolta sarò davvero lietissima di entrare nella stessa camera insieme con voi. Assurda ragazza, suonò la risposta, ma per nulla stizzosa. Emma aveva non meno ragione di rimanere soddisfatta del resto della compagnia che di Mr. Knightley. Fu ricevuta con un cordiale rispetto che non poteva che piacerle e le fu data tutta l'importanza che poteva desiderare. Quando arrivarono i Weston, marito e moglie ebbero per lei gli sguardi più amorosi e più ammirativi. Il loro figlio si avvicinò a lei con un gaio zelo che la designava come il suo oggetto favorito, e al pranzo essa se lo trovò seduto accanto e, come essa fermamente credeva, non senza qualche abilità da parte di lui. Era una riunione piuttosto numerosa, poiché comprendeva un'altra famiglia, un'ottima famiglia di signori di campagna contro cui non c'era niente da dire. I Cole avevano la fortuna di contarli tra i loro conoscenti. E la parte maschile della famiglia di Mr. Cox, l'avvocato di Highbury. Le donne di meno riguardo dovevano venire nella serata con Miss Bates, Miss Fairfax e Mrs. Smith, ma già a pranzo erano troppo numerosi perché la conversazione potesse essere generale. E mentre si parlava di politica e di Mr. Elton, Emma poté onestamente concedere tutta la sua attenzione alla piacevolezza del suo vicino. Il primo suono remoto a cui essa si sentì obbligata di porgere ascolto fu il nome di Jane Fairfax. Mrs. Cole pareva raccontare di lei qualcosa che prometteva d'essere molto interessante. Essa ascoltò e trovò che valeva la pena d'ascoltare. Quella parte così prediletta di Emma, la sua fantasia, ricevette un alimento interessante. Mrs. Cole stava dicendo che aveva fatto visita a Miss Bates e che, appena entrata nella stanza, era stata colpita dalla vista di un pianoforte, uno strumento d'aspetto molto elegante. Non un pianoforte a coda, ma un piano verticale di grandi proporzioni. E il succo della storia, la fine di tutto il dialogo che seguì di sorpresa e di interrogazioni, e di congratulazioni da parte sua e di spiegazioni da parte di Miss Leeds, era che questo pianoforte era arrivato da Broadwood il giorno prima, con grande stupore della zia e della nipote, assolutamente inatteso. Che dapprima, a sentire Miss Bates, chi stessa non sapeva raccapezzarsi, si stillava il cervello a pensare chi potesse mai averlo ordinato. Ma ora erano entrambe perfettamente convinte che poteva venire solo da una persona. Naturalmente doveva essere da parte del colonnello Campbell. «Non si può supporre altro», aggiunse Mrs. Cole. «E io sono rimasta sorpresa solo che ci sia potuto essere dubbio. Ma Jane, a quel che pare, ha ricevuto da loro una lettera di recente e lì non se ne faceva parola. Essa conosce meglio degli altri i loro modi, ma io non considererei il loro silenzio una ragione che non intendessero di fare il dono. Potrebbero aver voluto farle una sorpresa». Con Mrs. Cole furono d'accordo parecchi. Ognuno che parlò in proposito era ugualmente convinto che doveva venire dal colonnello Campbell. Egualmente si rallegrava che tal dono fosse fatto. E ce n'erano abbastanza di pronti a parlare per lasciar che Emma la pensasse a modo suo e ascoltasse tuttavia Mrs. Cole.